Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti. È un orario inconsueto, ma non è la prima volta che facciamo questo esperimento serale e devo dire che riesce sempre bene. Siamo in un edificio civile, per cui questa sera non useremo il microfono. Ecco, ve lo anticipo perché appunto abbiamo degli appartamenti sopra e quindi cerchiamo un attimo di rispettare così alcune piccole regole di convivenza con i nostri condomini, che peraltro ci apprezzano e vedo che insomma in questi anni ci stanno sopportando senza difficoltà. Il tema di questa sera ha un sapore particolare, oltre che essere molto interessante, e ha portato fino qui a Bolzano il professor Menozzi dall'Università della Scuola Normale di Pisa, su suggerimento dell'Associazione Storia Regione, Geschichte Region, che ringrazio, e ringrazio anche in particolar modo Andrea Sari che si è proposto come moderatore questa sera con noi. Ma soprattutto, ecco, visto gli ultimi avvenimenti, credo che sia quanto mai interessante anche capire, conoscere da una voce autorevole preparata come il professor Menozzi l'ambiente della Chiesa, la società e quindi tutto il percorso della storia dal Concilio Vaticano ad oggi e il suo rapporto con il mondo moderno, che sicuramente non è facile. La biblioteca inserisce queste iniziative di collaborazione anche con altre associazioni presenti sul territorio proprio per offrire sempre delle nuove occasioni di conoscenza, di informazione, ecco, lo dico sempre, è un po' un ritornello, ma è un messaggio che vogliamo mandare avanti con grande anche forza, perché la biblioteca è una straordinaria occasione aperta a tutti sempre per così costruire un percorso individuale e una tenersi aggiornati e costantemente avere delle informazioni anche su ambienti, aspetti magari a noi estranei a volte. E così facciamo anche queste iniziative. Questa settimana abbiamo appunto avuto 3 incontri e chiudiamo veramente questa sera con un incontro molto importante. Ringrazio ancora il professore di essere venuto anche da noi. Se ci saranno poi le necessità, la voglia di indagare, di avere ulteriori informazioni, noi siamo sempre a disposizione. È anche per questo che lasciamo sulla sedia un modulo da compilare, eventualmente chi volesse può iscriversi, è assolutamente gratuito e permette a tutti di accedere anche ad altri servizi che la biblioteca continua ad integrare. Vi ringrazio, cedo la parola intanto al professor Andrea Bonoldi, che è presidente dell'Associazione Storia Regione, Geschichte Region. Grazie. Grazie Valeria, un cordiale benvenuti a tutti anche da parte nostra, da parte di Storia Regione, per questo incontro che è una tappa ulteriore del rapporto di collaborazione che ci lega alla Biblioteca Claudio Augusta, un rapporto che ha già avuto diversi incontri. Io resto sempre meravigliato del modo con cui la Biblioteca Claudio Augusta interpreta il suo modo di essere biblioteca. Insomma, è una formula un po' diversa rispetto alle biblioteche tradizionali, perché questa capacità di proporre continuamente degli eventi che portino a un incontro diretto tra il pubblico e i protagonisti della vita culturale mi sembra una formula che è riuscita ad attecchire bene. E infatti, per avere un posto per un incontro bisogna prenotarsi 6 mesi prima. Questo dimostra che il calendario, insomma, è veramente, veramente ricco. Ogni tanto diamo in overbooking. Anche in overbooking, infatti 3 eventi questa settimana, sì. No? Hai detto, quindi sì, veramente ammirevole questa cosa. Ecco, io volevo approfittare anche di questo incontro, non me ne vorrà il nostro ospite, per ricordare un amico che ci ha lasciati qualche giorno fa, Christoph Hartung von Hartung. Molti di voi lo conosceranno nella sua qualità di storico, di valore della storia regionale, ma è stato molto più di questo, è stato per noi un amico, è stato anche un insegnante molto amato dai suoi studenti. Ho avuto modo di partecipare al suo funerale a Siusi l'altro giorno e c'è un'infinità di ragazzi che hanno partecipato e hanno detto anche parole molto, molto commoventi. Ma in più Christoph è stato un protagonista della vita civile della nostra città, qualcuno che è riuscito a spingere per rompere le barriere visibili e meno visibili che ci sono spesso fra i gruppi linguistici e fra i modi di interpretare la nostra storia locale. E in questo senso è stato veramente una persona che ha dato un contributo importante per una convivenza migliore. Ci mancherà tutto. Il nostro incontro di questa sera è un incontro che, come diceva già Valeria prima, ha moltissimi motivi di interesse. Beh, il primo è che viene esattamente a 24 ore di distanza dalla fine del pontificato di Benedetto XVI. Adesso non starò a dirvi che lo sapevamo, che avevamo i nostri circuiti informativi che abbiamo organizzato apposta, perché non è così, però effettivamente l'occasione è importante per riflettere su questo tema, un tema che non è un tema semplice, infatti non abbiamo chiamato una persona qualunque a parlarci di questa cosa. Non è un tema semplice perché parlare di storia e Chiesa apre tutta una serie di questioni che sono legate proprio all'istituzione Chiesa in quanto tale, cioè che la Chiesa ha una dimensione sua, temporale e spaziale, che non è paragonabile a quella di nessun'altra istituzione. La Chiesa esisteva già quando l'impero romano era al suo apice, ha attraversato vicende di vario genere, più o meno edificanti, ha passato fasi molto complicate, pensiamo alla Riforma, pensiamo alle conseguenze della Rivoluzione Francese, pensiamo alla fine del potere temporale dei papi. Eppure la Chiesa è presente ancora oggi come istituzione importante, e se pensiamo, le ultime statistiche dicono che i fedeli cattolici al mondo sono 1 miliardo e 195 milioni. Quindi è un'istituzione veramente globalizzata, che è presente ovunque e che però naturalmente deve affrontare, si trova ad affrontare oggi delle sfide importanti, le sfide di una modernità che porta con sé anche istanze come quella della secolarizzazione, per esempio della spingersi secondo piano della dimensione del trascendente, che costituisce effettivamente una sfida importante per la Chiesa. Poi c'è un altro aspetto che a me come storico, io mi occupo di tutt'altro perché mi occupo di storia economica, quindi un aspetto abbastanza distante da questo tema, però che mi ha sempre incuriosito, cioè il fatto che una disciplina come la storia della Chiesa venga percepita, non so per colpa di chi, come una storia specialistica in qualche modo, no? Che si fa all'interno di circoli ben definiti e che riguarda una platea relativamente limitata di cultori e di interessati, quando in realtà poi gli addentellati con la storia più generale sono estremamente importanti, estremamente rilevanti. E da questo punto di vista il nostro relatore di oggi, Daniele Menozzi, che è ordinario di storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha svolto un lavoro molto importante, perché nelle sue ricerche lui ha sempre cercato di mettere in relazione appunto la dimensione relativa alla storia dell'istituzione Chiesa con i grandi movimenti della storia contemporanea. Mi piace ricordare qui, tra parentesi, un lavoro di molto tempo fa che lui fece anche sulla nostra terra, perché ha fatto un indice delle lettere pastorali dei vescovi di Bolzano Bressanone, che è apparso negli anni 80, mi sembra, no? Nell'88. E poi comunque uno dei suoi ultimi lavori, Chiesa e diritti umani, che è una riflessione a tutto tondo su questo rapporto tra l'istituzione Chiesa e la dimensione dei diritti umani, che è veramente un libro di grande fascino e di grande interesse. Ecco, bene, io voglio concludere ringraziando il nostro relatore per essere qui con noi oggi, ringraziando il collega amico Andrea Sari per aver messo in piedi questa iniziativa, e auguro a tutti voi buona serata. Bene, grazie, un saluto anche da parte mia a tutti, un grazie di essere qui. Il mio compito è quello di presentare brevemente Daniele Menozzi, deve e vuole essere breve, il piatto forte della serata appunto è quello che ci dirà, quello che ci racconterà Daniele Menozzi, che, dicevano appunto Valeria ed Andrea, insegna storia contemporanea a Pisa, alla Normale, ma è emiliano di Reggio Emilia. Conosce un po' anche i nostri posti, si è affezionato, insomma, ama le passeggiate del Ciaufen, San Genesio, insomma, anche domani, insomma, ecco, si potrà di nuovo, con la giornata, col tempo bello della primavera che forse arriva, insomma, si potrà approfittarne ancora. Daniele Menozzi ha insegnato prima di essere chiamato da Normale di Pisa, ha insegnato storia della Chiesa o storia contemporanea in diverse sedi universitarie italiane, cominciato con Bologna, che è la città nella quale si è laureato a scienze politiche, ecco, con Giuseppe Alberigo, storico della Chiesa e del Cristianesimo, che ha diretto poi anche la, Brigo, morto da pochi anni, ha diretto anche un'importante storia sul Vaticano II. Poi ha insegnato a Lecce, a Trieste, a Firenze e adesso appunto a Pisa. Tra le sue tante pubblicazioni, ecco, Andrea ricordava l'ultimo volume, la monografia sui diritti umani, meglio, sul rapporto tra chiese e diritti umani dall'età della Rivoluzione Francese fino al pontificato del Papa Emerito, no? Fino al pontificato di Benedetto XVI, è l'ultima monografia. La penultima è esposta lì da personale della biblioteca, lo staff della biblioteca, che ringrazio anche di cuore per tutto il lavoro sempre molto rigoroso che ha fatto con quelle belle locandine che avete visto, con quell'immagine di Piazza San Pietro nella serata d'apertura del Vaticano II. Ecco, lo staff ha preparato una scelta delle ultime pubblicazioni di Daniele Menozzi, dicevo, il penultimo dedicato a Chiesa, Pace e Guerra nel Novecento. Questi ultimi due libri hanno una dedica collettiva, ce l'hanno agli studenti, con i quali anche il lavoro, lo studio di Menozzi si è sviluppato, ed è una dedica fatta con passione alla serietà con la quale gli studenti, al loro rigore con il quale gli studenti fanno sperare, no? Anche per un futuro della storia intesa come disciplina che forse non è sempre roseo. Sulla storia diceva Flaubert, disciplina pericolosa, no? Perché mette un po' in crisi le verità dogmatiche. Vi leggo quello che Daniele Menozzi aveva scritto in un'intervista a un giornale di qualche anno fa, e così gli passo la parola, no? Dice Daniele Menozzi al Tirreno, mi pare, del 2008, insomma, andiamo qualche anno fa, no? La storia, intesa come disciplina di studio, di insegnamento e di ricerca, aiuta ad un ragionamento critico basato sui dati, in quanto è analisi di fonti, di documenti, e quindi in questo modo si sforza di capire quello che è successo. Connettere la memoria dell'identità ad una storia che è percezione critica del passato è il solo modo per assicurare, conclude Menozzi, una convivenza civile il più possibile pacifica, tollerante e corretta. Quindi, come dire, la funzione civile della storiografia fatta con onestà, con rigore, no? con serietà. E quindi passo volentieri a Daniele la parola. Grazie molto. Sono molto lieto di essere qui a fare questa conversazione, perché appunto è una conversazione che in qualche modo si lega a vicende che stiamo vivendo, che credo si vivono con grande interesse, con grande partecipazione. Il mio tentativo questa sera è proprio quello di fornire alcuni elementi che aiutano a ricostruire il passato, un passato a noi vicino certamente, ma pur sempre passato, e che alla luce di questa ricostruzione ci possono anche aiutare a meglio situare, a meglio comprendere gli avvenimenti che stiamo vivendo. In fondo, appunto, la funzione della storiografia è proprio questa. Non credo che sia magistra vitae la storia, non credo che possa darci degli insegnamenti precisi su quello che possiamo fare, ma certo ci può aiutare a capire meglio il mondo in cui viviamo, e quindi anche ad orientarci meglio nelle nostre scelte. Il tema che vi propongo è il tema di questo rapporto tra la Chiesa ed il mondo moderno. Mi pare proprio che cercando di situare in una prospettiva storica l'evoluzione, lo sviluppo, lo svolgimento di questo rapporto, possiamo anche giungere a meglio individuare alcuni degli elementi che si stanno giocando oggi in una situazione storica certamente inedita e comunque appunto interessante, e credo comunque coinvolgente, perché qualunque giudizio si possa dare sulla presenza della Chiesa nella storia, certo questa presenza non è irrilevante per la società civile. Che la Chiesa si muova in un modo o in un altro modo non è per nulla inefficace sulla complessità delle nostre forme di convivenza. Ecco, vi faccio solamente un esempio, poi dopo entro direttamente in argomento, ma è un esempio che mi piace fare, che faccio spesso agli studenti. Credo che nel 1963, quando con l'enciclica Pacem in Terris si è abbandonato da parte della Chiesa un atteggiamento che portava alla moralizzazione della guerra, e si è avviato un atteggiamento per cui i cattolici erano impegnati alla costruzione della pace anziché alla legittimazione della guerra, qualcosa è cambiato anche nella nostra società civile. Ecco, proprio per questo credo che capire la Chiesa, conoscere la Chiesa, non sia irrilevante sul modo di vita di tutti noi. Dunque, vi dicevo, la questione della modernità, che mi pare appunto una questione centrale. Allora, che in primo luogo vorrei cercare di usare un linguaggio che sia un linguaggio definito, un linguaggio preciso. Come voi sapete, ma appunto il termine stesso, modernità, oggi è un termine che nell'ambito delle scienze sociali viene spesso discusso. È stata introdotta un'altra terminologia, si parla di postmodernità, alcuni parlano di ultramodernità, altri ancora di ipermodernità, per dire appunto che il concetto di modernità è un concetto che ormai è un concetto che non sempre è chiaro, non sempre vuole dire qualcosa di definito, soprattutto indica che qualcosa di diverso sta accadendo. Allora credo che ci sia appunto un primo elemento da mettere in luce, la questione del vocabolario. Che cosa intendo quando parlo quando parlo di modernità, quando parlo di rapporto tra Chiesa e mondo moderno? Ecco, intendo una cosa abbastanza precisa, abbastanza circoscritta, ed è quella stessa cosa che in larga misura ha inteso la stessa Chiesa, soprattutto ha inteso l'autorità ecclesiastica, quando parlava di mondo moderno, uomo moderno, modernità. E cioè l'essenza della modernità è l'affermazione dell'uomo, della sua capacità di costruire autonomamente le regole del consorzio civile. Quando si dice che cos'è l'uomo moderno, si vuole dire un uomo che si arroga la possibilità, la capacità di costruire una convivenza civile sulla base di regole che ha autodeterminato. L'uomo moderno è l'uomo, per l'appunto, che si emancipa da ogni tutela, che si libera da ogni condizionamento, che afferma di essere da sé capace di dar vita ad una società che sia una società prospera, che sia una società felice, che sia una società corretta, comunque appunto una società capace di perseguire la giustizia. Questa è, per modernità si intende per l'appunto normalmente questo, cioè l'autodeterminazione dell'uomo. È l'uomo che è autonomo nel definire le regole fondamentali della collettività. Ora, questo tipo di definizione, che per l'appunto è la definizione che in larga misura la Chiesa ha dato di uomo moderno, è una definizione che ha fatto problema alla Chiesa. Ha fatto problema alla Chiesa perché la Chiesa ha per lunghi secoli ritenuto di possedere le chiavi della giusta, felice, corretta convivenza civile. Non era l'uomo da sé che poteva determinare le regole, queste regole le doveva accettare, le doveva recepire dalla Chiesa. La Chiesa aveva appunto elaborato una morale sociale, un'etica collettiva da cui dipendeva la civiltà stessa. Si delineava in questo modo, si è delineato in questo modo un contrasto, una contrapposizione, una antitesi, e appunto la Chiesa si è contrapposta, si è lungamente contrapposta alla modernità, proprio perché riteneva che questa rivendicazione di autonomia dell'uomo fosse una rivendicazione destinata a finire in una distruzione della convivenza civile. L'uomo che pretendeva da sé di costruire le regole fondamentali della collettività, a che cosa avrebbe portato? Avrebbe portato all'anarchia, avrebbe portato alla barbarie, avrebbe portato alla incapacità di una qualunque forma di civilizzazione. Dunque uno scontro che ha trovato il suo apice in un documento che voi tutti conoscete, e cioè il Sillabo, pubblicato da Pio IX nel 1864, nel quale appunto si proclamava, vi leggo l'ultima proposizione condannata dal Sillabo nel 1864, che è diventato un po' l'emblema di questo documento: è inaccettabile sostenere che il romano pontefice può e deve riconciliarsi col progresso e con la civiltà moderna. Questa civiltà moderna che pretende di fare da sé, di regolare da sé le regole della società, di determinare da sé le regole della società, non può accordarsi, non può conciliarsi con il romano pontefice. Vi è un'antitesi, una contrapposizione, una radicale condanna di questo atteggiamento. Bisogna subito aggiungere però che se vi è stata appunto questa forte contrapposizione, vi è stata questa radicale antitesi, ben presto è maturata all'interno della Chiesa anche un'altra linea. Sì, esattamente, la linea di Leone XIII, mentre appunto la linea di Pio IX è stata quella della contrapposizione, la linea di Leone XIII è stata invece una linea di una accettazione della modernità. Un'accettazione, peraltro, ecco, questo vale la pena di sottolinearlo e di ricordarlo, non era un'accettazione piena. Non è che Leone XIII procedesse ad accettare i principi della modernità, cioè per l'appunto il fatto che l'uomo fosse da solo ad determinare le norme della convivenza civile, ma piuttosto Leone XIII ha accettato non i principi, ma gli strumenti, ma i mezzi della modernità. Cioè questa civiltà moderna produceva degli strumenti, produceva dei mezzi, è tipico esempio quello della stampa, ma ad esempio anche quello della ferrovia, cioè produceva degli strumenti che derivavano dal progresso scientifico, ed erano strumenti che potevano essere accettati. Vi faccio un esempio, tanto per uscire da questo discorso che può sembrare un discorso troppo astratto e troppo teorico. Tra i principi della modernità, tra le autodeterminazioni dell'uomo, vi era anche la libertà di stampa. La libertà di stampa è un principio della modernità che va accettato. Tendenzialmente la Chiesa nega la possibilità di accettare la libertà di stampa, perché la stampa non può essere libera. La stampa deve diffondere delle norme morali, deve essere sottoposta ad un controllo etico. Non ci deve essere una verifica del messaggio che trasmette la stampa. Dunque il diritto alla libertà di stampa fa parte di queste libertà moderne che il Sillabo condanna. Bene, con Leone XIII non è che si accetti il diritto alla libertà di stampa, ma si utilizza il diritto alla libertà di stampa come uno strumento. Uno strumento è un mezzo che viene utilizzato per fare che cosa? Per fare sì che si ritorni ad una società nella quale la stampa sarà regolata. È semplicemente usato, utilizzato, accettato non come principio, non come valore, ma come strumento. Uno strumento che serve per riportare ad una situazione in cui la libertà non sarà più un diritto. Questa diversa posizione, potremmo continuare naturalmente, ecco, lo schema teorico all'interno del quale questa posizione viene definita è lo schema in cui si dice che si accettano gli strumenti, si accetta la modernità come una ipotesi. Cioè si accetta la modernità come qualcosa di momentaneo, come qualcosa di temporaneo, come qualcosa che viene accettato in vista di ritornare alla tesi, cioè di ritornare all'assetto della società nella quale la Chiesa imporrà nuovamente le regole della convivenza civile. Questa nuova situazione che si crea, che non è più una situazione di condanna, ma è una situazione di accettazione parziale, limitata, temporanea, in vista del ritorno ad una situazione diversa, si può chiamare modernizzazione. La Chiesa rifiuta la modernità in quanto principio, però accetta la modernità come strumento, cioè compie un'opera di promozione della modernizzazione, di una sua modernizzazione naturalmente. Entra nella società moderna acquisendone gli strumenti e quindi assume una posizione di modernizzazione. Ecco, questa duplice linea condanna dei principi della modernità, ma anche promozione della modernizzazione, cioè non si tratta più di usare solamente la libertà di stampa, ma ad esempio si tratta di promuoverla, cioè si tratta di moltiplicare i giornali, ma non solo si tratta di moltiplicare i giornali, di avere una presenza capillare nella stampa, si tratta di utilizzare tutti i nuovi mezzi di comunicazione, il cinema naturalmente. Ad esempio, non appena emerge il cinema, ecco allora che ci sarà l'utilizzazione del cinema come strumento come uno strumento moderno di cui ci si impossessa per cercare di combattere i principi della modernità in futuro. E così si può andare avanti, la televisione, se volete, e così via. No? C'è tutta questa promozione della modernizzazione come una presenza effettiva, reale della Chiesa nella società contemporanea. Ora, queste due linee, condanna della modernità, promozione della modernizzazione, utilizzazione degli strumenti del mondo moderno, promozione di questi strumenti, è una linea che va avanti per alcuni decenni all'interno della Chiesa, fino a che si giunge ad un momento che è in qualche modo un momento di cambiamento. E questo momento di cambiamento trova la sua espressione più significativa nell'avvento di un pontefice, Giovanni XXIII, ne avete tutti sentito parlare come il Papa Buono, ma non era solamente il Papa Buono, era certamente qualche cosa di più, il quale pone, e non a caso appunto, come forse voi sapete, Giovanni XXIII era stato a lungo professore di storia ecclesiastica, era uno che la storia la conosceva, la praticava, la insegnava, ed anche quando era rappresentante diplomatico in Bulgaria, aveva continuato a praticare la storia, dedicandosi alla edizione delle visite pastorali di San Carlo Borromeo a Bergamo, appunto una monumentale impresa di edizioni di fonti che termina proprio mentre è rappresentante diplomatico del Vaticano in Bulgaria. Dunque, appunto, Roncalli assume una posizione diversa, comunque comincia quantomeno a porre il problema in termini diversi. Vediamo adesso come pone il problema, poi cerchiamo anche di porci la domanda del perché pone in termini diversi questo problema. Allora, tanto per anche qui cercare di essere non generici, non generali, facciamo riferimento ad un discorso noto, al discorso che molti di voi conoscono, alla locuzione con cui nell'ottobre del 1962 Giovanni XXIII apre il Concilio Vaticano II, la famosa allocuzione dei profeti di sventura, il celebre discorso in cui il Papa appunto afferma che coloro i quali, e vi leggo la frase, nei tempi moderni non vedono che prevaricazione, rovina, sono appunto dei profeti di sventura. Coloro che nei tempi moderni non vedono che prevaricazione e rovina, nei confronti di questi ritiene il Papa di dovere dissentire da cotesti profeti di sventura. Perché? Perché dissente dai profeti di sventura? Perché appunto il mondo moderno offre delle opportunità alla Chiesa. Ma badate, non offre solo delle opportunità in quanto mette a disposizione alla Chiesa strumenti di evangelizzazione, strumenti pastorali, strumenti di apostolato, nuovi modi con cui affermare la propria presenza nel mondo. E questo l'aveva già fatto Leone XIII, in fondo non è che Giovanni XXIII neghi questo, Giovanni XXIII ripropone anche questo, ma non si limita più a questo, non si limita ad affermare una via di modernizzazione della Chiesa, cioè di utilizzazione di tutto ciò che il progresso mette a disposizione per poter avere una presenza più larga e più diffusa. Sostiene anche che il mondo moderno offre delle libertà alla Chiesa, offre delle libertà, libertà che consentono alla Chiesa di agire in maniera più consona alla propria essenza, alla propria struttura, alla propria natura. Come vedete, le libertà non sono più dei mezzi, sono qualche cosa che è in qualche modo coerente con la Chiesa stessa. È qualche cosa di più. Queste libertà che il mondo moderno offre non sono solo degli strumenti, ma sono qualche cosa che la Chiesa ritiene di avere nel proprio deposito. Il discorso è naturalmente un discorso di tipo molto, molto, molto generale. Giovanni XXIII lo offre in questa locuzione di apertura del Concilio come un problema che i padri riuniti a Roma debbono affrontare. Toccherà a loro affrontare questa nuova questione, per cui le libertà moderne non sono più solamente degli strumenti, ma sono qualche cosa che la Chiesa ha nel proprio deposito dottrinale. Saranno loro a dover dipanare questa questione. È un problema che lui offre come uno degli elementi programmatici del Concilio. Vi dicevo, lo pone quindi in termini molto generali, non lo svolge, non lo articola, però lo pone. Ecco, perché pone questo problema? Come mai c'è stato questo cambiamento? Credo che questo sia interessante da tenere presente, perché questo ci aiuta anche a capire che insomma, quello che è accaduto in quel momento di mezzo secolo fa, di quasi mezzo secolo fa, è qualche cosa che spesso non viene ricordato dentro le sue giuste prospettive. E proprio per renderci conto di che cosa ha voluto essere, di che cosa ha significato, va collocato dentro i termini, dentro i parametri con i quali lo si capiva allora e lo si presentava allora. Per Giovanni XXIII era abbastanza chiaro che la Chiesa si trovava di fronte ad una svolta, ad un momento cruciale, e cioè l'atteggiamento che aveva tenuto, quello di condanna della modernità e promozione della modernizzazione, erano atteggiamenti che non erano più in grado di consentire alla Chiesa di parlare all'uomo contemporaneo. Dunque la Chiesa era condannata ad un regresso, era condannata ad un impedimento nella sua azione stessa, che era per l'appunto quella di evangelizzare, quella di diffondere il Vangelo, quella di essere una presenza significativa nel mondo contemporaneo, se non cambiava. La linea condanna della modernità, promozione della modernizzazione, era una linea che impediva alla Chiesa di continuare ad essere in maniera significativa presente nel mondo contemporaneo. Occorreva cambiare pena la riduzione della Chiesa ad una setta. La Chiesa, che ha un messaggio universale, non riusciva più ad essere universale se non era in grado di mettersi in comunicazione con l'uomo contemporaneo, ritrovare il linguaggio, i parametri, appunto, le categorie dell'uomo contemporaneo. E il tema della libertà, delle libertà moderne, dell'autonomia, dell'autodeterminazione era una categoria imprescindibile per l'uomo contemporaneo. Parlare con l'uomo contemporaneo, ritornare a parlare con l'uomo contemporaneo, non poteva avvenire se non assumendo la questione della autodeterminazione, della libertà, appunto, dell'uomo, del rifiuto dell'uomo moderno di una tutela, di una eterodirezione da parte di altri. E appunto era questo il problema che Giovanni XXIII, che Roncalli, dava al concilio. I padri conciliari erano chiamati a affrontare questa questione, come fare in modo che la Chiesa potesse ritrovare una capacità di dialogo con l'uomo contemporaneo, uscendo dalla mera condanna della modernità e dalla mera promozione della modernizzazione, e mostrando le sintonie, le convergenze, le possibili conciliazioni tra cattolicesimo e mondo moderno. Come ha svolto il Vaticano II questo problema? Mi pare che la questione possa essere una questione ampia, una questione articolata, complessa. Mi limito solamente a dare alcuni elementi che credo ci aiutino, che siano importanti, ci aiutino a capire lo svolgimento di questo problema. E lo faccio sulla base di una delle grandi costituzioni del Concilio Vaticano II, e cioè la Costituzione Gaudium et Spes, quella relativa al rapporto tra la Chiesa ed il mondo, e che è appunto uno dei documenti fondamentali, uno dei quattro documenti fondamentali, ce ne sono tanti altri, ma sono come quattro documenti fondamentali del Vaticano II. Ora, cosa dice a questo proposito la Costituzione Gaudium et Spes? Indubbiamente il documento prende atto di un passato nel quale la Chiesa non ha saputo riconoscere, percepire adeguatamente quali erano le istanze, le esigenze, i bisogni dell'uomo moderno. Prende atto di una difficoltà, non proprio degli errori, occorrerà aspettare il giubileo dell'anno 2000 perché si parli appunto del pentimento per le colpe del passato. Ancora non siamo nel 1965 al riconoscimento delle colpe storiche, e però appunto prende atto che non ha saputo rendersi conto che qualcosa nella storia stava cambiando, che l'uomo stava cambiando, che l'uomo era diventato in qualche modo un uomo adulto, che non aveva più bisogno di essere guidato da regole ferre, determinate da autorità che stavano al di sopra dell'uomo, ma che l'uomo era capace di regolare da sé la propria vita. Ecco, c'è un riconoscimento appunto di questo ritardo, di questa incomprensione, di questa difficoltà che ha avuto la Chiesa nei rapporti con l'uomo moderno ed il mondo moderno. Ecco, una volta fatto questo atto, preso atto che c'è stato questo errore in qualche modo, Cosa propone per il futuro? Quale altra linea viene messa in campo? E la linea che viene messa in campo è appunto la linea che si gioca attorno ad una parola fondamentale, e cioè parola autonomia. Nell'ambito del documento la parola autonomia ricorre. Autonomia dell'uomo è una autonomia che ricorre spesso. La Gaudium et Spes riconosce appunto che vi è stato nei diversi ambiti, l'ambito scientifico, l'ambito culturale, l'ambito sociale, vi è stato un mancato riconoscimento dell'autonomia dell'uomo. Ma una volta guardato questo rispetto al passato, per il futuro, quando si tratta di riconoscere per il futuro la posizione dell'uomo, tutte le volte che ricorre il sostantivo autonomia si appone accanto al sostantivo un aggettivo. L'aggettivo giusta, l'aggettivo lecita, l'aggettivo relativa, l'aggettivo ordinata. Non c'è un pieno riconoscimento dell'autonomia dell'uomo, ma un riconoscimento che deve essere quello di una giusta autonomia, di una ordinata autonomia, di una legittima autonomia, di una relativa autonomia. C'è sempre un condizionamento, c'è sempre una limitazione. C'è un condizionamento, c'è una limitazione che rinviano in qualche modo ad una regola morale, ad una morale, ad una etica, di cui appunto la Chiesa si sente, si proclama depositaria, e rispetto alla quale viene a condizionare l'esercizio della indipendenza dell'uomo, dell'autodeterminazione dell'uomo. Ecco, c'è peraltro una frase, insomma, nella Gaudium et Spes che ci aiuta a capire, che resta ancora nel documento, nei padri conciliari che hanno redatto questo documento, resta in qualche modo ancora una ambiguità, una possibile uscita da questa situazione, perché appunto la Gaudium et Spes indica che in qualche modo la supervisione che la Chiesa propone nei confronti della società moderna, dell'uomo moderno, può essere data a riguardo, si esprime attraverso un giudizio morale. In qualche modo è un giudizio morale che la Chiesa dà in ordine all'esercizio dell'autonomia dell'uomo moderno. Ma il giudizio morale appunto può avere esiti molto diversi, cioè il giudizio morale può essere un giudizio che è rispettoso dell'autonomia dell'uomo, del decidere poi i caratteri delle regole della vita collettiva, oppure invece può essere un giudizio che diventa un giudizio che ispira o addirittura detta in maniera vincolante le regole dell'azione dell'uomo. Questo giudizio morale è un giudizio che ha un suo spettro di applicazione piuttosto vario. Può essere semplicemente un giudizio offerto e lasciato alla libertà dell'uomo di accettarlo o meno. La Chiesa pronuncia un giudizio sull'autonomia dell'uomo nel regolare la vita collettiva su determinate leggi, pensate solamente appunto alle leggi relative a quelle che nel nostro paese hanno poi portato a dei referendum, le leggi relative al divorzio oppure alle leggi relative all'interruzione della gravidanza. La Chiesa esprime il proprio giudizio su queste leggi, dopodiché chi vuole seguirla segue questo giudizio, chi non vuole seguirlo non lo segue. Oppure questo giudizio morale è un giudizio vincolante, è un giudizio che si deve tradurre in una normativa civile, è un giudizio che deve valere per tutti, cioè diventare legge, quindi valido per tutti, anche coloro che ritengono in coscienza di non dover accettare quel giudizio morale. E questo è il problema appunto che il Concilio lascia in qualche modo irrisolto. il concilio parla di un giudizio, ma non ci dice se quel giudizio è un giudizio che viene lasciato alla libertà degli uomini, oppure se invece è un giudizio che deve diventare legge, che gli uomini devono tradurre in norme, in norme vincolanti per tutti, e dunque anche per coloro i quali in coscienza respingono la validità morale di quel giudizio. Le regole, appunto, le cose sono naturalmente molto diverse, insomma, nel caso si tratta di accettare quel giudizio e praticarlo come testimonianza individuale, singola da parte del credente che vuole seguirlo, nell'altro caso si tratta di vincolare anche chi non l'accetta alla pratica di quel giudizio. La Gaudium et Spes lascia irrisolto il problema. Può essere interpretato in un modo, può essere interpretato nell'altro modo. Tocca dunque a chi viene dopo alla Gaudium et Spes, tocca a Paolo VI, che come sapete succede a Giovanni XXIII e diventa Papa nel 1963, toccherà per l'appunto a Paolo VI in qualche modo sciogliere questo problema. Paolo VI non ha semplicemente, appunto, come aveva il Concilio, il compito di fornire dei grandi orientamenti di carattere dottrinale o di carattere pastorale, ha il compito di governare, e dunque governare significa dare delle indicazioni precise, non ci si può più limitare semplicemente a fornire un quadro ambiguo, occorre sciogliere questa ambiguità. E dunque come la scioglie Paolo VI questa ambiguità? Montini la scioglie, direi, in maniera abbastanza chiara, e lo fa abbastanza presto, insomma, ecco, già all'indomani della conclusione del concilio emerge chiaramente una sua linea, insomma, no? È una linea nella quale verrà poi applicata chiaramente nel corso del referendum per l'introduzione della legge sul divorzio in Italia, è una linea nella quale il Papa afferma chiaramente che per quanto riguarda i fini, gli scopi dell'azione temporale, i fini e gli scopi appartengono alla determinazione della Chiesa. Dunque, laddove la Chiesa ritiene che entri in gioco la salvezza delle anime, sarà la Chiesa a decidere se i fini, gli scopi dell'attività temporale debbano essere lasciati alla libera determinazione degli uomini oppure no. In sostanza, laddove la Chiesa rivendica a sé l'autorità di decidere se una certa regola ha attinenza con la salvezza ultraterrena oppure no, e qualora la Chiesa decida che quella regola ha a che fare con la salvezza ultraterrena degli uomini, allora la Chiesa propone una norma che deve essere una norma valida per tutti, una norma universale, applicata sempre, dovunque, in ogni luogo, da tutti. Non è possibile prescindere dall'indicazione della Chiesa, dalla determinazione della Chiesa, se quella regola della convivenza umana è una regola che attinge alla sfera della salvezza ultraterrena. E per Paolo VI, appunto, la questione del matrimonio e la questione della famiglia era una questione che attingeva alla salvezza ultraterrena degli uomini. La disciplina della famiglia, la disciplina del matrimonio è una disciplina che ha a che fare con la salvezza delle anime. Non è una disciplina puramente temporale, e dunque è una disciplina in cui la Chiesa deve dettare le proprie regole e in cui gli uomini non sono liberi di scegliersi le proprie regole. Tocca alla Chiesa definire le regole che debbono essere applicate da tutti, sempre, in ogni luogo. Questa è la soluzione che dà Paolo VI. Però, come vedete, è interessante notare che per Paolo VI questa soluzione è una soluzione che si applica relativamente ad alcuni ambiti, che sono per l'appunto l'ambito familiare e l'ambito matrimoniale. E sono questi ambiti, sono ambiti circoscritti in fondo. Più tardi, nel corso del suo pontificato, verso la fine del pontificato emergerà anche un altro ambito che comincia a essere l'ambito, anche perché i problemi cominciano a diventare evidenti in quel momento, che sarà l'ambito del diritto alla vita, e comincerà anche ad essere questo un altro ambito che viene sottratto alle libere determinazioni degli uomini e viene invece riservato a regole morali di cui solo la Chiesa ha la chiave e che gli uomini non possono autodeterminare. Ma ciò nonostante, appunto, resta in maniera piuttosto circoscritta, piuttosto limitata. Ecco, le cose cambieranno con il successore di Paolo VI, e cioè con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II è, come sapete, è un pontificato che abbiamo vissuto tutti, che conosciamo per tanti aspetti, e certamente è un papa complesso, è un papa per anche contraddittorio, è un papa che sicuramente dal punto di vista della modernizzazione ha fatto parecchio. Insomma, ecco, c'è un uso degli strumenti, in particolare di comunicazione di massa, davvero estremamente, se volete, sapiente, insomma, ecco, proprio per la promozione della modernizzazione. Ma sul problema che a noi interessa, che non è appunto il problema della modernizzazione, ma è il problema della modernità, è il problema della libertà dell'uomo di costruirsi da sé le regole della convivenza civile, qual è stata appunto la posizione di Giovanni Paolo II? Ecco, io credo, si possono naturalmente dire parecchie cose, ma insomma io credo che una cosa vada tenuta presente, e cioè che vi è in questo pontificato un momento che è un momento periodizzante, e cioè il 1989, il 1990, il periodo nel quale si verifica un fatto storico epocale a livello planetario, insomma in Europa, ma anche a livello planetario, cioè il crollo del comunismo, la fine di un assetto della società che si era dato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'abbattimento del muro di Berlino è in qualche modo il simbolo di un cambiamento epocale nella nostra società. Come voi sapete, Giovanni Paolo II non è estraneo a questo esito. Sarebbe certamente esagerato dire che ha prodotto questo esito, e pensare che sia stato il Papa ad abbattere il comunismo è certamente qualche cosa che non regge ad un'analisi storica che sottolinea la fine del regime comunista per implosione, cioè un regime che non è più incapace, che non è più capace di produrre la possibile sussistenza per i propri abitanti. Dunque la ragione fondamentale è l'implosione di questo regime, ma sarebbe anche sbagliato ritenere che Giovanni Paolo II non ha dato un contributo a questa implosione. Basta appunto dire che vi è stato un apporto fondamentale di Giovanni Paolo della Chiesa, insomma, e di Giovanni Paolo II ad insistere sul fatto che i regimi comunisti che nel 1975 col trattato di Helsinki avevano condotto un'operazione, e cioè il riconoscimento dei confini del Odermies, cioè i confini usciti dalla Seconda Guerra Mondiale da parte dell'Occidente, in cambio di una introduzione nelle loro costituzioni dei diritti fondamentali dell'uomo ed in particolare della libertà religiosa. Questo era stato il significato di Helsinki 1975. L'Occidente riconosce i confini usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi riconosce i confini dei regimi comunisti. In cambio, i regimi comunisti inseriscono all'interno delle loro costituzioni alcuni dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla libertà religiosa. Bene, che cosa fa Giovanni Paolo II? Giovanni Paolo II insiste per dire, nelle vostre costituzioni c'è il riconoscimento di questi diritti. Come potete non accettarli? Come potete non praticarli? Li avete inseriti e adesso la praticateli. Solidarnosc che cosa fa? Chiede esattamente questo. Chiede che ciò che esiste nella Costituzione formale dello Stato polacco diventi un dato sostanziale, un dato reale. Quei diritti e quelle libertà li avete riconosciuti, li avete accettati, adesso pratichiamoli, mettiamoli in pratica. Non possono più non essere accettati. E questo è una spinta indubbia all'implosione di quei regimi che non reggono di fronte a questa contraddizione. Quindi un contributo Giovanni Paolo II lo ha dato, e come vedete in qualche modo ha dato un contributo anche alla autodeterminazione degli uomini, proprio perché ha insistito che quelle libertà venissero effettivamente praticate. Il fatto è che una volta che questi regimi crollano, che questi regimi vengono abbattuti, Giovanni Paolo II spera che si determini in Europa occidentale come in Europa orientale un nuovo ordinamento nel quale vengano fondamentalmente rispettate le regole che la Chiesa ritiene debbano essere poste a base della convivenza civile. E questo è quello che non accade. Esattamente questo non accade. I paesi nei quali si è verificato il crollo dei regimi comunisti, anziché spingersi verso un'accettazione di ciò che la Chiesa dice, si spingono sempre di più verso la secolarizzazione. Da questo punto di vista la Polonia è il caso più clamoroso, la sua Polonia è il caso più clamoroso. Una Polonia nella quale non è affatto il tipo di società immaginata da Solidarnosc che si va creando, ma è una società che prende ad esempio i modelli più secolarizzati dell'Occidente, e in particolare i modelli consumistici. Ciò che si vuole realizzare appunto è il modello della secolarizzazione occidentale, e la ricchezza facile, il consumo facile, la possibilità appunto di un arricchimento facile. E di fronte a questo fatto, cioè di fronte al fatto del fallimento in qualche modo del progetto, cioè di usare le libertà moderne come grimaldello, come effettivamente è avvenuto per abbattere i regimi comunisti, che si comincia ad avere nei confronti di queste libertà una posizione che è molto diversa rispetto a quella precedente. È una posizione di chiusura, è una posizione di diffidenza, è una posizione di paura. Le libertà moderne sono qualche cosa che sì, hanno abbattuto i regimi comunisti, ma anziché favorire un ritorno, una ripresa, un'espansione della Chiesa, determina un arretramento della Chiesa nei paesi in cui si sperava che invece la Chiesa potesse avere un ruolo ben diverso. Ed ecco allora che comincia ad emergere dopo l'89, dopo il 90, un ritorno ad una posizione che Paolo VI aveva delineato limitatamente appunto a quegli ambiti che vi avevo accennato, cioè l'ambito matrimoniale e l'ambito familiare, e si comincia ad allargare questa posizione, cioè il fatto che la Chiesa interviene ad determinare le regole della vita collettiva ad ambiti sempre più vasti. Sono i problemi nuovi che stanno emergendo, sono tutti problemi connessi alla bioetica, ma sono anche altri problemi, ad esempio il problema dell'istruzione, il problema della presenza delle scuole ecclesiastiche, e sono appunto problemi via via che si vanno dilatando fino a che appunto Giovanni Paolo II comincia verso la fine del pontificato e su suggerimento dell'allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Ratzinger, comincia ad assumere una nuova categoria generale con cui poter affrontare questi problemi del rapporto tra Chiesa e mondo moderno. È una categoria che era già emersa con Montini, ma era appunto una categoria rimasta allora più limitata, più circoscritta, che invece ora comincia a dilatarsi, ed è appunto la categoria della legge naturale. Gli uomini debbono organizzare complessivamente la loro vita collettiva sulla base della legge naturale. Non la Chiesa detiene la possibilità di capire le norme, le regole che Dio ha imposto alla natura, al creato, a tutta la natura. Queste norme, che costituiscono appunto le leggi naturali, solo la Chiesa è in grado di decifrarle, perché appunto sono norme poste da Dio nell'universo, e dunque la Chiesa può proporre queste norme, queste leggi naturali, come il quadro complessivo a cui si deve attenere ogni forma di convivenza civile. E le leggi naturali non devono più essere applicate solamente al matrimonio, alla famiglia, alla vita, a tutte le questioni bioetiche, alla istruzione, ma via via si vanno sempre più allargando, si vanno sempre più dilatando a tutte le forme della vita sociale. Ecco, chi porta a termine questo processo? Il Papa, che individuerà la legge naturale come regola alla quale si deve attenere ogni forma di vita collettiva, sarà il successore di Giovanni Paolo II, cioè Benedetto XVI. Il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che aveva spinto nella seconda parte del pontificato di Giovanni Paolo II ad introdurre il tema della legge naturale come un tema che diventava la proposta, l'offerta della Chiesa alla società civile, quest'uomo appunto diventa Papa, propone ormai la legge naturale come in qualche modo l'offerta che la Chiesa fa per una retta convivenza civile, un'offerta però alla quale la società si deve attenere, pena la dissoluzione stessa dei vincoli sociali. Vi è qui un ulteriore elemento che merita di essere un attimo sottolineato. Benedetto XVI riprende quella opposizione tra Chiesa e modernità che era stata propria dell'Ottocento, che era stata propria di Pio IX. Ritorna in qualche modo a questo elemento, cioè alla tesi che una società che non accetti l'indicazione che la Chiesa propone circa la legge naturale, quella società è destinata a perdere ogni forma di civiltà, è destinata a disgregarsi, è destinata a finire nell'anarchia. C'è una forte sottolineatura in Benedetto XVI di questo pessimismo nei confronti della società che si autoregola, la società che si autodetermina, l'uomo da sé, l'uomo da solo, l'uomo che rifiuta di essere guidato da ciò che la Chiesa gli propone, cioè la legge naturale. Quest'uomo è destinato a dissolversi in qualche modo, è destinato a finire in un baratro, è destinato a cadere in una vita fondamentalmente anarchica. Questo aspetto, in qualche modo l'aspetto della paura dell'autodeterminazione dell'uomo, è uno degli elementi che hanno, mi pare, caratterizzato questi 8 anni di pontificato, e che si può naturalmente giudicare in vario modo, insomma, ecco, le ragioni del ritorno a questo atteggiamento di scontro, a questo atteggiamento di contrapposizione con l'autodeterminazione dell'uomo. Indubbiamente, insomma, i fondamentalismi, la rinascita dei fondamentalismi può essere stato una di queste componenti, ma probabilmente non c'è solamente questa componente, insomma, ci sono anche altre componenti che lo determinano, e probabilmente una componente, insomma, è la convinzione di ribaltare ciò che aveva fatto Giovanni XXIII, cioè che è attraverso non l'apertura all'uomo moderno, ma è attraverso la condanna e la contrapposizione all'uomo moderno che la Chiesa può riprendere in mano un ruolo significativo nella società contemporanea. Credo che questa sia un'ipotesi credibile che può essere fatta appunto per le ragioni di questa di questo affermazione della legge naturale come norma valida per tutti, una norma che deve essere tradotta in legge, non è semplicemente una norma proposta che si può accettare o non accettare, deve essere tradotta in norme legislative. Ecco, credo che appunto questa ipotesi, cioè l'ipotesi che di fronte ai fondamentalismi, ma anche di fronte alle incertezze, di fronte alle paure che stanno emergendo, l'idea di una proposta forte, di una proposta che viene dall'autorità, sia la via per restituire alla Chiesa una incidenza sulla società contemporanea, è una proposta che va fatta. E io credo che la rinuncia al papato sia la dimostrazione che questa proposta ha fallito. Va bene, con questo chiudo per dare il dibattito. Ecco, allora, grazie tanto a Daniele Menozzi per questa relazione di ampio respiro che ci porta ai giorni, alle ore nostre, appunto, che stiamo vivendo, no? Alla rinuncia, ai suoi effetti, alle sue possibili ragioni, alle sue possibili motivazioni, e così un tentativo anche di contestualizzarla con il passato prossimo, diciamo, della Chiesa Cattolica. Tempo allora e le forze per una discussione, un dibattito o per domande. Menozzi in questi ultimi giorni è ricercato dalla radio, soprattutto dai giornali, insomma, no, ci si rivolge appunto agli storici, in questo caso appunto allo storico nostro ospite, per avere chiavi di lettura, no? Di quello che sta succedendo, perché forse paragonare la vicenda della rinuncia di Ratzinger con quella di Celestino V, no, nel 1294, o con quella del Concilio di Costanza del 1415, forse è fuori luogo. Forse il problema, come ha detto Le Goff, il grande medievista Le Goff, il problema è proprio il rapporto con la secolarizzazione, con il mondo moderno, insomma, quindi magari un fallimento della riproposizione di una linea intransigente o neo-intransigente. Però mi fermo qui, la parola volentieri a chi se la sente di rompere il ghiaccio. Ecco, signora, prego, e poi il signore. Io più che una domanda ho un desiderio, ma credo che non potrà essere. Io questa lezione che ho sentito stasera, con tutte, cioè, io domani me la leggerei con calma. Però ecco, Valeria ci comunica una cosa interessante, importante. Ma sotto noi le mettiamo sul sito, per cui lei può riascoltarla in ogni momento da casa. Sì, sì. Oppure qua in biblioteca, con il nostro computer, la può venire durante l'orario di apertura e se non la posta mia va a ripostare. No, non è possibile. No, ma così non con questo fatto. Volevo dire che è stata proprio bellissima, che grazie. Me la leggerei con calma. Grazie, signora, grazie. Grazie a lei. Poi c'è il signore, mi sembra, vero? Sì. Grazie. Io chiedo scusa perché ho disturbato la collaboratrice della dottoressa Trevisan prima, chiedendo se per caso avevano una copia del codice penale. Ma non era casuale, vabbè, il codice penale non c'è, non fa niente. Ma non è casuale questa mia richiesta. Perché? Perché purtroppo bisogna vedere quali erano i rapporti che c'erano tra la Chiesa cattolica al tempo del fascismo e il fascismo che è ancora oggi il patrono, diciamo, del codice penale, perché è una vergogna, ma il fascismo è caduto nel 1945, ma il codice fascista Rocco è tuttora in vigore. No? E l'Italia democratica non ha sentito il bisogno di introdurre certe modifiche. Ora, quando si parla proprio di autodeterminazione, io avrei voluto proprio leggere qui alcuni articoli, no? Dove risulta abbastanza chiaramente che come il fascismo la pensava, così la pensavano anche altri, no? Che l'uomo non ha diritto alla sua autodeterminazione, perché insomma guardate che il codice penale fascista, no? Non usa la parola eutanasia, usa il termine omicidio del consenziente, e l'omicidio del consenziente, l'eutanasia, viene condannata come se fosse un delitto. Ora, io per carità non voglio sindacare, però insomma penso che tra compatrioti ci intenderemo, perché anch'io sono nato a Reggio Emilia, no? e quando io appunto dico questo, intendo questo, non intendo tanto fare della polemica o cose di questo genere, però per favore, se noi abbiamo il rispetto per l'autodeterminazione, beh, allora qualche articolo del codice fascista Rocco probabilmente sarebbe il caso di modificarlo o di cambiarlo, no? Ultimo punto, San Francesco, le laudi di San Francesco. San Francesco a un certo punto dice nelle laudi: laudato sì, mi Signore, per morte nostra corporale. Allora, qui mi pare che il concetto di legge naturale sia messo abbastanza in chiaro. Allora, vogliamo rispettare la natura nel senso di impedire che si arrivi a certi eccessi, come quello di riempire di tubi un moribondo, e quando questi uomini moderni si avvicinano, vanno verso la morte, lasciamoli morire in pace, non riempiamoli di tubi, tubicini e tubetti, e non riduciamoli a dei vegetali. Chiedo scusa, grazie. Se raccogliamo magari eventuali altri spunti, altre riflessioni, anche considerazioni, altre domande. Solo una domanda: a livello ipotetico, in base alla sua esperienza, come pensa che cambierà l'atteggiamento della Chiesa nei riguardi di queste tematiche? Bella domanda. Non dovrei essere io a rispondere. Si glinde. Una cosa vorrei chiedere, che mi sono chiesta da sempre: perché questa concentrazione su certi ambiti, che lei ha anche accennato, a matrimonio, famiglia, bioetica, perché non su altri, la giustizia sociale per esempio, sì, o l'economia, insomma, ne avrebbe da dire sulla responsabilità la Chiesa per esempio. E poi un'altra cosa, sulla qualità, visto che l'ha anche detto, questa rinuncia al papato non è un atto di autodeterminazione troppo autonomo, però, sì, quasi anarchico. Allora, visto che le domande sono poche e facili, aggiungo una che riguarda il rapporto tra la Chiesa e la dimensione politica, no? In quella accettazione non della modernità ma della modernizzazione che viene fatta a un certo punto, penso alla Rerum Novarum di Leone XIII, c'è anche la presenza dei cattolici in politica, insomma, che in Italia sono di una nazione particolare, ma poi che noi ritroviamo in tutta Europa e nel mondo. Ecco, mi sembra che negli ultimi tempi un grosso problema della Chiesa sia proprio la qualità della presenza dei partiti di ispirazione cattolica, di ispirazione cristiana nella politica. Se penso a cosa è successo in Italia, dove sostanzialmente a Todi si è provato a rimettere insieme qualcosa, ma poi non si è riusciti, ma penso a cosa succede anche a partiti tradizionalmente vicini alle posizioni della Chiesa. Di per sé anche il Partito Conservatore Britannico in qualche modo aveva questa istanza morale e si è fatto promotore di una legge per il matrimonio omosessuale che va contro uno di quei principi irrinunciabili, insomma, che costituiscono i capisaldi della Chiesa. Lo stesso succede alla CDU germanica, che proprio di recente ha proposto di introdurre il matrimonio omosessuale anche nella realtà tedesca. Il Partito Popolare in Spagna ha in qualche modo proseguito sulla politica che aveva fatto Zapatero da questo punto di vista, quindi c'è veramente un problema di presenza di un braccio politico all'interno del panorama dei partiti, e questo naturalmente penso che sia un problema grosso per la Chiesa, qual è la sua posizione su questo tema. Faccio un primo giro. Okay, va bene. Dunque, allora, cerco appunto di rispondere a questioni complicate, non so fino a che punto è possibile dare una risposta, ma credo che sia importante tenere presente che la legislazione fascista converge in alcuni aspetti con le attese, le speranze del mondo cattolico, della Chiesa cattolica, ma è dettata da ragioni diverse. Perché questo appunto spiega convergenze, sovrapposizioni, ma spiega poi anche alcune divaricazioni e divergenze. Cioè, che cos'è che spinge il codice Rocco a quel tipo di disciplina? È la tutela della nazione o la tutela della razza? Non è questo che spinge naturalmente la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica non ha come ragione la tutela appunto della razza o la tutela della nazione per impedire appunto l'autodeterminazione, cioè nell'ambito del fascismo, detto un po' schematicamente, insomma, nell'ambito del fascismo i soggetti, gli individui non hanno diritti ma hanno solo doveri, perché esistono delle comunità, appunto la comunità razziale o la comunità nazionale, che sono sovraordinate agli individui, e gli individui hanno rispetto ad esse dei doveri. Ciò che conta sono i diritti della razza e della nazione. Gli individui, rispetto ai diritti della razza e della nazione, hanno dei doveri, e dunque è questa la ragione appunto che spiega determinate regole. Non è appunto così per la Chiesa. La Chiesa ritiene che se anche qua detto un po' schematicamente, ma credo che aiuti a capire, che gli individui, i singoli, abbiano dei doveri rispetto alla comunità ecclesiale, dunque non la comunità razziale o la comunità nazionale, ma la comunità ecclesiale, ovviamente le cose non sono le stesse, non coincidono, e che comunque agli individui spettano alcuni diritti. Dunque non c'è una totalità della comunità che assorbe i diritti degli individui, la comunità ecclesiale non assorbe tutto l'individuo, è vero che gli individui hanno dei doveri verso la comunità ecclesiale, ma esistono alcuni fondamentali diritti che gli individui hanno e che appartengono agli individui in quanto creati ad immagine e somiglianza di Dio. Sono pochissime cose: il diritto all'esistenza, il diritto al matrimonio, il diritto all'istruzione religiosa. Ecco, sono pochissime cose, ma sono diritti che appartengono alla persona e che tutte le comunità debbono, comunità nazionale, comunità razziale, statale, debbono riconoscere, perché sono anteriori e precedenti Dunque ci sono forme di convergenza, dunque appunto c'è in linea generale la forma di convergenza per cui i diritti delle comunità sono sovraordinati agli individui, ma non pienamente, perché comunque gli individui mantengono qualche cosa. Sono questi il fatto che nella concezione cattolica gli individui siano creati ad immagine e somiglianza di Dio, cioè siano persone, sono perciò centri di in quanto persone centri di imputazione di diritti che appartengono a loro e che nessuno può disconoscere, nessuna comunità può mettere in dubbio, in particolare lo Stato deve riconoscere. Qui c'è una frizione tra i fascismi e la Chiesa, ad esempio appunto riguardo alla concreta estrinsecazione del diritto all'istruzione religiosa. Insomma, lo scontro con il nazismo verte proprio su questo punto qui. Per la Chiesa gli individui, le persone hanno un diritto alla istruzione che lo Stato deve riconoscere e tutelare, non può manipolare, non crea e non può manipolare. Quindi le cose sono complesse, insomma, in questo rapporto, perché ci sono convergenze, forme di sovrapposizione, ma ci sono anche distinzioni. Può cambiare l'atteggiamento della Chiesa, naturalmente è difficile da dire. Ecco, si può pensare che ci sono stati alcuni degli esponenti della gerarchia ecclesiastica i quali, penso in particolare appunto al Cardinale Martini, insomma credo che l'esempio sia questo, i quali hanno pensato che senza mettere in questione le verità fondamentali della Chiesa ci possa essere un atteggiamento più duttile nei confronti delle legislazioni da parte della Chiesa stessa. Ecco, che questo, insomma, l'ipotesi, come avete credo anche capito dalla mia esposizione, è che la rigidità con cui si è mosso questo pontificato è la ragione o una delle ragioni che hanno portato alla rinuncia. E dunque se all'interno del conclave si prenderà atto di questo, non è detto che si prenda atto, naturalmente, non è affatto detto soprattutto perché con larga misura i conclavisti sono stati scelti da Giovanni Paolo II e soprattutto da Benedetto XVI, dunque sono persone che sono in qualche modo allineate a ciò che è stato fatto finora. Ecco, ciò non toglie appunto che la realtà è pur sempre più forte di qualunque linea di governo. Dunque, se qualcuno vorrà prendere atto della realtà, se si vorrà prendere atto della realtà, allora si può pensare che possa intervenire un cambiamento. Naturalmente è anche possibile che si dica perché il Benedetto XVI è stato costretto a dare dimissioni, perché non è stato sufficientemente rigido. Dunque occorre inasprire ulteriormente la linea. È possibilissimo anche questo. È possibilissimo che ne esca un personaggio ancora più rigido rispetto a Benedetto XVI, anziché un personaggio che appunto abbia in mente una prospettiva di mutamento, nel senso appunto di una accettazione dell'autodeterminazione dell'uomo moderno. Questo credo che lo sapremo solamente quando sapremo il nome del pontefice. Sempre tenendo presente che i pontificati vanno storicizzati e che non sono mancati pontefici che sono cambiati nel corso del loro governo. Vi faccio l'esempio più classico, più clamoroso. Nel 1933 Pio XI diceva che Hitler era l'unico uomo di Stato di grande levatura nel panorama mondiale, perché era l'unico che combatteva adeguatamente il comunismo. Ecco, nel 1938 Pio XI è anche colui il quale mette in questione l'antisemitismo nazista con appunto una forza che nessuno dei suoi predecessori aveva avuto. Ecco, quindi i papi possono cambiare nel corso del loro governo, si rendono probabilmente appunto davanti alla realtà delle cose possono anche mutare le loro posizioni. Perché matrimonio e famiglia? Credo perché è il controllo della riproduzione, è il controllo della vita. Dunque è l'elemento, come dire, fondamentale per la stessa sussistenza, insomma, ecco, controllare matrimonio e famiglia vuol dire appunto controllare la vita, almeno voleva dire fino a ieri controllare la vita. Oggi appunto le cose sono cambiate, credo che qui ci troviamo di fronte di nuovo ad uno dei problemi della difficoltà del rapporto con la modernità, perché appunto questa rivendicazione del controllo della vita oggi in realtà è molto più labile, e questo mette in questione appunto il problema stesso di natura. Che cosa è la natura oggi? Cosa possiamo dire che sia natura oggi? Di fronte appunto a questi nuovi scenari in cui ciò che fino a ieri era ritenuto fondamentale, tutto diventa anche per la Chiesa molto più incerto. Appunto le questioni che accadono all'interno della Curia credo che siano questioni che certamente hanno a che fare con personalismi, che hanno a che fare con ambizioni, che hanno a che fare con giochi di potere, ma credo che siano questioni che hanno a che fare col fatto che la Chiesa oggi si trova in una difficoltà enorme. Questo è il problema vero, insomma, il problema di vedere come far fronte ad una realtà che ha messo in questione molti dei parametri, molte delle certezze con cui fino a ieri si poteva tranquillamente giocare. Ecco, oggi tutto è un terreno molto friabile, allora questi cambiamenti a cui stiamo assistendo mi pare trovino una loro spiegazione. Non so se la rinuncia al papato è un atto anarchico, insomma, ecco, la mia impressione è, che cosa ha detto Benedetto XVI? Ma ha semplicemente detto: non ho più le forze, le energie materiali e spirituali per poter governare di fronte ai compiti che oggi si pongono al Papa, per poter governare la Chiesa. È questo che ha detto, no? E dunque, insomma, credo che occorra dargli atto che ha espresso ciò che effettivamente sentiva, cioè una incapacità di governo. Certo, poi l'ha fatto in maniera ambigua, l'ha fatto in maniera contraddittoria, perché insomma, da un lato rinunciare significa omogeneizzare il Papa a quello che fanno i vescovi, cioè equiparare il Papa, vescovo di Roma, a tutti gli altri vescovi. Tutti i vescovi sono raggiunto il 75esimo anno di età, sono tenuti a dare le dimissioni. Anche il Papa ad un certo punto si è in coscienza detto: ho raggiunto un'età in cui non sono più in grado di svolgere il mio ministero, e quindi annuncio la mia rinuncia. Da un lato appunto c'è questo aspetto appunto di che è una omogeneizzazione alle regole che valgono per tutti, perciò in qualche modo un atto che secolarizza, normalizza il Papa, toglie la sua funzione sacrale. Ecco, però dall'altro lato che cosa ha fatto? Vuole essere chiamato Papa Emerito? Mantiene il titolo di sua santità, vive a due passi dal nuovo Papa, veste ancora di bianco, non riesce a portare fino in fondo questo atto di normalizzazione, vuole mantenere in qualche modo questa funzione, no? Quindi c'è una contraddizione in questo. Da un lato appunto in qualche modo si normalizza, diventa come il vescovo di Roma è uguale agli altri vescovi, finalmente insomma determinazione del Vaticano II sembra trovare una sua applicazione concreta, ecco, però dall'altro lato non riesce a portare fino in fondo questo processo, volendo mantenere, come dire, una distinzione, una diversità, un rapporto che è diverso rispetto a quello degli altri vescovi. Infine l'ultima questione, appunto la questione del rapporto con i partiti politici e con il laicato cattolico organizzato. Naturalmente sì, anche qua si avvertono grosse difficoltà. Credo che appunto anche qua vada un pochino recuperata la ragione storica, cioè quando nasce il movimento laicale cattolico, quando nascono i partiti di ispirazione cattolica, quando nasce tutto questo associazionismo cattolico che si pone sul piano politico, sul piano sociale, no? Nasce quando l'autorità ecclesiastica, in particolare il papato, ma insomma anche le gerarchie locali, si rendono conto che sono venuti a mancare i principi cristiani. Siamo appunto nella seconda metà dell'Ottocento, ormai è rimasto solamente un principe cristiano, l'imperatore d'Austria, tutti gli altri principi non sono più principi cristiani. Dunque viene a mancare il braccio secolare. Il tradizionale braccio secolare della Chiesa è venuto a mancare, perché appunto si può ancora fare riferimento per un po' all'imperatore d'Austria, ma poi anche persino Francesco Giuseppe, nell'applicazione del concordato del 1854, non è poi così ligio al suo dovere di principe cristiano. Applica il concordato prendendosi qualche libertà rispetto alla lettera stessa del patto che aveva sottoscritto. Dunque il braccio secolare non funziona più. E allora c'è bisogno di un nuovo braccio secolare. E il nuovo braccio secolare è il movimento cattolico. Sono i laici. Ai laici si affida il compito di esercitare quella funzione di braccio secolare della Chiesa che i principi cristiani non sono più in grado di esercitare. Ecco, che cosa è successo? Questo braccio secolare ha funzionato più o meno bene, no? Per circa un secolo. Ecco, che cosa è successo? È successo che nel Vaticano II, insomma di nuovo nei confronti con la modernità, i cattolici che dovevano agire da braccio secolare hanno cominciato a dire possiamo ancora agire da braccio secolare, però le forme con cui riusciamo a fare l'interesse della Chiesa non ce le può dire l'autorità ecclesiastica che non vive nel mondo e vive al di fuori del mondo e vive in una situazione che non conosce i problemi. Siamo noi a dover decidere le forme con cui questo braccio secolare può agire. Ecco, di fronte a questo il braccio secolare ha cominciato ad andare in frontumi. E credo che sia questa insomma la ragione, cioè nel momento in cui appunto i cattolici, per carità, continuano a dire sì, siamo braccio secolare, vogliamo agire come per il bene della Chiesa, in funzione della Chiesa, però tocca a noi e non all'autorità ecclesiastica determinare le forme concrete, è finita, è venuta a mancare la ragione stessa della funzione dell'associazionismo cattolico di tipo politico, insomma. E credo che sia un po' questa la cosa che è accaduta. Ecco. Posso chiedere una domanda? In chiusura, visto che l'ora, ecco, prego. Molto ingenua, ma pareva di aver colto dal sue esposizioni che la Chiesa fosse sempre stata molto interessata a mantenere il controllo su una certa visione morale dell'umanità. E mi stavo chiedendo, in passato potevo immaginarlo, quando aveva anche un potere temporale da dover giustificare, da dover radicare, poteva avere interessi in qualche modo a legare a sé le persone, a legare a sé i principi, a quasi porsi come autorità alternativa al potere secolare di un imperatore e addirittura in qualche modo creare dei meccanismi per cui era la Chiesa a legittimare l'imperatore. Però nel momento in cui è venuto a perdere tutto questo potere secolare, perché continua a... non riesco a capire molto bene se è questa consapevolezza di tra virgolette, grandi filosofi che si rendono conto che se che l'umanità lasciata a se stessa, il piccolo uomo si perde nei suoi, come si può dire, nei suoi affanni quotidiani e ha bisogno della grande guida spirituale, o che cos'altro, o se è talmente incentrata su se stessa che si dice qua per quasi giustificare la nostra esistenza dobbiamo far credere di avere una certa, un certo compito che nessuno, o insomma poca gente, o sempre meno gente, diciamo così, ci riconosce. Cerco di rispondere partendo dal cuore della Gaudium et Spes. Cioè la Gaudium et Spes dice la Chiesa rinuncia ad intervenire in ambito politico, presa di posizione molto, molto, molto chiara, molto netta, ad eccezione dei casi in cui si è in gioco la salvezza delle anime. Non è un modo quasi, quasi per dire ok, cerco l'aggancio, per comunque aver sempre il becco, cioè poterci mettere il becco. Il problema è quando è che è in gioco la salvezza delle anime, chi è che dice quando è in gioco la salvezza delle anime. Quello che voglio ecco, dire. Quindi è questo. E le risposte possono essere molto diverse, naturalmente. Ad un certo punto Pio XI dice la salvezza delle anime non è in gioco quando si pavimentano le strade, tutto il resto è in gioco la salvezza delle anime. Ecco, naturalmente Giovanni XXIII non pensava esattamente così, si potevano fare altre cose oltre alla pavimentazione delle strade senza che fosse in gioco la salvezza delle anime. Il punto è per l'appunto questo, no? Quando è che in gioco e chi determina quando è in gioco la salvezza delle anime, cioè nei rapporti politici è in gioco la salvezza delle anime oppure no? Questo è per l'appunto uno delle questioni insomma, in cui si può dire che ci sono articolazioni diverse, cioè quando si affrontano le grandi questioni, mettiamo, relative alla distribuzione della ricchezza tra nord e sud del pianeta, nei rapporti politici è in gioco, può essere in gioco la salvezza delle anime, ma quando appunto si decide tra repubblica e monarchia non è in gioco la salvezza delle anime, no? Si può essere liberi nel decidere quando si vota per un partito oppure per un altro, si può, non è in gioco la salvezza delle anime. Quindi insomma la risposta può essere una risposta piuttosto graduale, però la questione è per l'appunto questa, cioè che diciamo c'è stato negli ultimi due decenni una ripresa della tesi secondo cui la competenza delle competenze relative alla salvezza delle anime appartiene esclusivamente all'autorità ecclesiastica. È l'autorità ecclesiastica che è competente nel decidere laddove è in gioco la salvezza delle anime. Sì, per cui chiedo scusa se interrompo, questo mi pare ovvio, nel senso che l'anima è un concetto religioso, ma quello che non riesco a capire è come mai centri continuamente la Chiesa cerchi continuamente con questi discorsi di giustificare la propria il fatto che lei debba dare e spiegare come l'uomo debba comportarsi. Se in gioco nei comportamenti, se in gioco la salvezza delle anime oppure no. Bisogna vedere chi è il proprietario dell'anima, insomma. Se il soggetto singolo è sovrano oppure no, fino a quando? Io volevo non andare fuori tema, ma abbiamo adesso anche l'incontro col mondo musulmano, il mondo dell'Islam, che ha altre concezioni. E come ci rapportiamo con questo mondo che ci è vicino e che vive in mezzo a noi? Certo, non c'è dubbio, certo. E che deve sottostare alle stesse leggi nostre. Poi la questione della libertà religiosa, naturalmente. Su questo, anche questo c'è stato un fenomeno interessante, insomma, no? Cioè il fenomeno per cui c'è stato... le leggi diciamo di uno Stato devono governare tutti i cittadini, sia di fede musulmana, di fede ebraica, di fede cattolica. E come ci rapportiamo noi tutti quanti insieme? Appunto, cioè, il problema è questo, per l'appunto, cioè che tocca agli uomini che vivono all'interno di una determinata comunità determinare le regole e le discipline che consentono il raggiungimento dell'interesse generale di quella comunità. Appunto questo tipo di visione, che è una visione laica sostanzialmente, è un tipo di atteggiamento che negli ultimi due decenni non è stato accettato dall'autorità ecclesiastica. La mia impressione è che questa non accettazione sia una delle ragioni, se non la ragione principale, delle difficoltà che la Chiesa sta oggi vivendo. Questo è stato un po' detto sinteticamente. Altra domanda, facendo un po' riferimento a quello che diceva la signora. Leggi e regole, anche se si parla della Chiesa che le emana, però ci sono sempre gli uomini che aiutano, insomma, che compongono queste leggi o regole. E oltre al ventennio cui accennava il Signore, avanti, che c'è stato un forte contrasto tra leggi, Chiesa e laici, così, ancora più forte il contrasto c'è stato della formazione delle leggi e delle regole ai tempi della Rivoluzione francese, che c'è stato un grossissimo contrasto con la Chiesa. Lo stesso Robespierre, che quella volta ha fatto e ha inventato le leggi della ghigliottina, per esempio, lui stesso poi è stato vittima con la ghigliottina della legge che lui stesso... E allora c'è il pericolo, la possibilità, il pericolo più lontano, che pur formando certe leggi, poi chi le emana, queste leggi, o chi le compone, cada anche vittima della legge stessa che lui ha composto. Sì, sì, ma non c'è dubbio, io andrei anche oltre, cioè, come sa, lei sa, Robespierre, che pure è stato uno di quelli che hanno portato avanti il processo di separazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato francese, è anche quello che ha inventato una religione politica sostitutiva, cioè la religione dell'essere supremo. Allora, nel momento in cui si separa la Chiesa dello Stato, però si crea una religione politica, una religione secolare di tipo sostitutivo, vuol dire che non si ha fiducia nella capacità dell'uomo di determinare attraverso la sua sovranità le regole della vita collettiva. C'è una profonda contraddizione, c'è stata una profonda contraddizione anche interna alla Rivoluzione francese, ma c'è stata una profonda contraddizione anche all'interno dei totalitarismi, laddove appunto, quando parliamo di totalitarismi, parliamo di religioni secolari. Ecco, cioè il tentativo di sostituire il cristianesimo o il cattolicesimo con una religione politica, con una religione diversa. La conquista della laicità come regola fondamentale della convivenza civile, che non vuol dire per l'appunto... mettere in questione la Chiesa, perseguitare la Chiesa, vuol dire lasciare alla Chiesa e alle associazioni religiose una piena libertà di svolgere la propria attività pastorale all'interno di uno Stato che non dà vantaggi e privilegi a nessuna associazione religiosa. La conquista della laicità è una conquista difficile e non è ancora pienamente raggiunta. Viviamo in uno Stato concordatario, non viviamo in uno Stato laico. Infatti lo stesso limite che può essere costituito e sarà sempre indefinibile, fin dove arriva la legge e da dove può cominciare la libertà, perché se la libertà, se la legge è tenuta a condizionare la libertà a un certo punto, non si... tocca agli uomini, sono gli uomini che devono darsi dei limiti, non possono essere altri, tocca agli uomini nella concreta visione dell'interesse generale che in ogni momento una comunità ritiene di poter perseguire, determinare le regole, e saranno regole cangianti perché i limiti della libertà cambiano continuamente a seconda della storia, non possiamo predeterminarli. Bene, grazie. Va bene, grazie. Grazie.